con l'attrice Linda Di Pietro per parlare dello spettacolo La stanza di Aracne, che sarà a Roma, città dell'altra economia, dal 17 al 20 gennaio 2019. Linda, ben trovata. Grazie, ben trovato Federico. Intanto voglio dire che gli autori di questa stanza di Aracne sono due, ci tengo, sono Vittorio Continelli e Luana Giacovelli, e invece è soltanto di Vittorio Continelli la regia. È uno spettacolo al femminile in cui il protagonista è Sonia Viviani insieme alla sottoscritta. E partiamo dal mito di Aracne, come si intuisce dal titolo. Un mito, insomma, molto bello e anche un po' inquietante per certi versi, che ci ha affascinato e da lì è nato, insomma, questo viaggio che poi ci ha portato a una storia moderna in realtà. Che ti ha convinto di questo lavoro? Intanto il piacere di collaborare con Vittorio, con Sonia, che sono oltre che colleghi, che stimo molto, sono amici, e avevamo insieme un po' un sospeso, un progetto che volevamo da tempo mettere insieme, e su questa idea di Vittorio abbiamo cominciato a lavorare, poi è nato questo testo a quattro mani. Devo dire, mi ha convinto il fatto di portare in scena una storia moderna che però ricalcasse il mito. Questo è qualcosa che mi affascina sempre, perché il mito si porta per mano, si porta al centro di noi poi, perché sono storie che comunque ci appartengono sempre. Quindi questo viaggio dall'antico al moderno mi piace tanto, mi ha sempre affascinato, è qualcosa che mi prende molto. Poi la storia, insomma, tu hai visto anche altri spettacoli. Sono storie sul lavoro, sulla condizione femminile, un po' sul potere, no? Come si comporta il potere, col talento in questo caso, perché la grande sfida nella stanza di Aracne è tra il talento di Aracne e il potere, cosa fa col talento di qualcuno, come lo usa, come lo sfrutta, come lo distrugge anche, e che cosa pensa del talento, il potere. Questo è qualcosa che mi piace molto, che poi chi fa il nostro lavoro è un tema che conosce, che soffre, che patisce, no? Quindi è qualcosa che mi appartiene molto. Questo spettacolo, insomma, fare le prove di questo spettacolo mi coinvolge molto, ci coinvolge molto, è divertente, è appassionante, quindi insomma sì, mi convince molto il tema fondamentalmente e la storia. Come avete pensato la messa in scena dello spettacolo? Come l'avete messo in scena? Allora, dunque, cioè, inizialmente c'è stata un po' una scelta di un luogo che non fosse un luogo teatrale, perché proprio nel titolo, La stanza di Aracne, in qualche modo non volevamo che fosse uno spazio scenico, ma che fosse una stanza. Quindi abbiamo cercato un posto che potesse essere una stanza in cui potessimo però avere, no? La protezione e quello che serve per una messa in scena. Quindi abbiamo scelto questa sala nella città dell'altra economia, che effettivamente ha il fascino di una stanza, che potrebbe essere la stanza di Aracne. La stanza di Aracne è fondamentalmente un'azienda in cui si fanno abiti, quindi una stanza dove pian piano, telaio dopo telaio, questa donna ha messo insieme un gruppo di sarte bravissime, di ricamatrici, che tessono e cuciono abiti da sposa. Quindi da lì poi parte tutta la vicenda, lì si inizia, lì si conclude il tutto. La messa in scena è molto molto semplice. Vittorio lavora molto sull'essenza delle cose, anche a livello interpretativo. Questo ha convinto molto, ci piace molto lavorare così, sulle relazioni e su quelle che sono le ferite di questi due personaggi e quello che fanno per coprirle e quando poi si rivelano, quindi sono proprio queste relazioni a dare corpo alla messa in scena. Che vita avrà dopo Roma? Dunque, questo è un debutto in cui noi vogliamo far vivere questo spettacolo per la prima volta e, come spesso accade, no? Dare il via. Sicuramente avrà altre messe scena in spazi non teatrali, come sai, è una cosa che a me piace molto, no? Sito specifico, sono stati altri Sì. spettacoli fatti in questa chiave, quindi cercheremo altre stanze che si accolgano e continueremo a portare questa storia. Non abbiamo appuntamenti ancora, francamente, però il fatto di non dover avere uno spazio teatrale al momento è anche una libertà, quindi insomma ci dà la possibilità di trovare spazi e non inserirci in una stagione, no? Per esempio, che a volte può essere anche un vincolo. Bene. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma dello spettacolo La stanza di Aracne dal 17 al 20 gennaio a Roma, la città dell'altra economia. Linda, un abbraccio, in bocca al lupo, ci vediamo lì. Grazie a te Federico, un abbraccio. Ciao, ciao.